sai, che mala sorte di chi mi arrivai. Ora yeah. c'è la radio accesa, vedo questo segnale muoversi. Poi sono fatto il volume, ho sentito musica, ho detto ma vera che prende musica. Però non mi sono accorto più di più. Aspetta che chiamasse, ma nessuno si è svegliato. Mettiamo musica, comunque qualcuno a fare, infatti ogni tanto moravo per vedere se c'era qualcuno. Era pazzia, almeno così teniamo allegra la frequenza. Se non c'è qua, c'è una bella musica, va bene lo stesso. È importante che sia anche tu, visto che c'è questo sul 12 in banda laterale, no? Sono in LSB, in 11 metri si muove in USB, non in LSB. Vabbè, KK, c'è il sole, però c'è sempre freddo. Sì, c'è freddo, c'è. Credo che oggi è una giornata molto fredda, veramente, no? Purtroppo è così. Stamane per lavoro mia figlia è dovuta andare a Usolo, dice c'era da decine di ettari, perché a Usolo c'è tremendo, veramente freddo, ma molto freddo. E a me lui, tutta l'Angloma è fredda, a Usolo ci ho lavorato un bel po' di tempo, a Usolo, Nulvi, Erbu, Buzzi, Sedini, la Erru, Perfugas. È tutta fredda quella zona, ma fredda però, mamma mia, mi ricordo oggi quando andavo a fare il controllo la mattina presto, era da Gancarasci, ma da Gancarasci però. Sì, sono stato stamattina andata per lavoro, lì, al comune, e dunque dice, oh mamma mia, dice, non si poteva stare, c'è fredda, ma la Usolo era tremendo, tremendo veramente. Lì è in alto soprattutto, infatti lì è molto in alto, per cui c'è molto, e c'è sotto il cellulare per telefonare, se mi sono congelato le mani, no, non è possibile, guarda. Break! Ehi, lo so, ho registrato il break. Freddo, va bene, avanti, buonasera Antonio. Buonasera a te Giulio. Freddo, senti? È abbastanza tu, ciao tu, è abbastanza freddo, oggi, infatti chi sono di Zenna Claudio, oggi c'è freddo, oggi lo dico, si è tremendo, veramente, non c'era la neve, però non si può stare dal freddo, come fanno quella gente, vabbè, siamo abituati, perché purtroppo il loro clima è quello, in questo periodo, per cui resistono per quel motivo lì. Ma è tremendo stare lì, perché non è abituato perlomeno. Lo so, c'è freddo. Quella zona c'è freddo, ma ti ripeto, tutta l'Anglona molto molto fredda, non è che sia solo Usolo. Se vai a Nulvi allora è ancora peggio. Ancora peggio. KK. Alberto, ci ho fatto desiderio di stare nel 12. Un po' sì, volevo venire qua. Sì, vabbè, sono fan di brui, provette, cilindri e cappelli. Poi ricordatevi che in 11 metri, come i 10 metri, si parla in USB, non in LSB. KK, avanti. Ok, allora stavano facendo prove sul 12, chi c'era? Oltre a te Antonio, chi c'era sul 12? Incluso gli amici di Porto Torres, e ogni tanto vado e saluto, faccio, e pure lui lo prende la prova. Vabbè, fa la prova, non è un problema, ma come ti stavo dicendo qua io, in quella frequenza si usa l'USB, non l'LSB. Vabbè, ognuno fa come crede, per noi va sempre bene, vero qua? Mi piace a me, è giusto una precisazione, ogni banda c'ha la sua selezione, 10 metri, 20 metri, 80, si parla in USB, mamma mia, e stanchezza. Si è parato un po' di scatole ancora oggi, non ci ha posto tutte le bottiglie e tutti i piatti nelle scatole. Spero di iniziare a portare via qualcosa la prossima settimana, non si è rotto le scatole, se non si manda nessun rabbi da muri, la mesa dei beni, non posso manco pulire, non posso fare niente. Lo so, purtroppo è così, ma conviene lasciare di terminare, infatti è inutile ad imbarcarti lì dove ci sono loro, perché sarebbe un lavoro doppio, perché tu pulisci e loro sporcano, per cui è meglio lasciarli terminare completamente e poi se arrivano, così almeno sei libero di sistemare le cose una volta per tutte, perché non è possibile convivere quando si fanno i lavori, soprattutto i lavori di muratura. Basta ridare, se arriviamo ai tedeschi, i muratori erano sempre con servizio, meglio i tedeschi non arrivi, dimmi, per carità. Però bueno, così si parlava quando lavoravo, no? Che andavo fuori anch'io, che c'erano lavori di muratura, basta ridare. Scappa, e purtroppo pure quelli vanno fatti, ci vuole a casa bella, deve farlo. Ah sì, questa non ci sono dubbi, bisogna arrivare, però deve arrivare e deve andare puro, perché arrischiarsi insieme a loro è un macello, è veramente un macello. Vai Claudio. Non è questione di avere casa bella, no? La casa è normale come tutti. È una regia sicuramente, è una casa normalissima, però c'erano lavori da fare e li stanno facendo. Stava entrando acqua dal caverio, quindi hanno dovuto rifare tutto il caverio nuovo, impermeabilizzare, intonacare, fare, dare l'impregnante, tutto all'esterno. Poi sono passati all'interno. Era un po' di anni chiusa, capito? Stanno facendo, pensavo che ne avessero per qualche giorno, invece li sono già mesi lì, quindi hanno approfittato a fare tutte le verniciature, tutte le cose, sono ancora anche in mezzo ai beni, beh Giulia non è che porto la roba a sacca pulire, no, non lo cavano via loro, ritirano tutto, c'è tutto da pulire, disinfettare, restare tutti mobili. Non è così, no. Io vabbè, piano piano, non mi ho fretta. Già so di no che non mettevo che nessuno. Vai Anto. Cappa, piano, purtroppo. Vabbè, io ho detto così ancora, ma purtroppo quando ci sono a fare questi lavori sono imprevisti, insomma, sono giramento di scatole. Imprevisti. Ce ne siamo accorti all'ultimo, no? Quelle ultime acque che hanno fatto fortissime, quelle acque proprio la pioggia forte, le temporali cose, capitato che sono andato lì e ho visto che era tutto bagnato, tutti i muri bagnati, i muri bassi erano tutti bagnati, delle stanze, in giro e il caverio finalmente c'è stato qualche problema, quindi erano tutto rifatto a nuovo, niente di che, e vabbè, piano piano. No, è che la cosa, Giulio, che non riesco a capire come facciano le donne a mettere tutte queste cose dentro gli armadi. Avrò un centinaio di scatole. Sembra uno di quei tre trucchi, come si dice, di quelle società, no? So tutte le scatole uguali, tutte, perché me le stanno portando tutte dal McDonald's dove lavorava mia figlia. Quindi sono tutte uguali, sono tutte segnate, nastrate, segnato quello che c'è dentro. Avrò una settantina, tutte scatole di cartone. E quindi non riesci neanche più a fare niente qua, capito? Sì, lavi per terra, passi la scopa, quelle poche cose che si è accampato, quindi non vedo l'ora veramente di finire tutto qua. ti capisco, purtroppo le donne sono fatte così, sono ammucchiano per monarire, ammucchiano solo con ordine, no? Quando devono mettere dentro i mobili tutto è sistemato per bene, se poi poco a poco ci metti le mani, mamma mia, lascia fare, perché l'hai spostato quello non andava lì, quello andava messo io, mamma mia. No. Cioè, ti capisco, purtroppo è così. Babu. Adesso tanto mi sta facendo le premesse niente, anche lui mi è qua. Invece è considerato che da poco si è ammogliato, vero tu? Cappa, ma già abbiamo un accordo noi. Io mi abbatto. Che cosa a me, però, già. Meno male già non un accordo. Beh, quello sicuramente non vedo dubbi. Non è detto che perché ci debbano essere queste piccole contraddizioni, ma mura lì che non si deve andare d'accordo, ci mancherebbe altro. Ma per dire no. Purtroppo sono delle madroni in quel caso lì o qua, sono loro che devono gestire la casa, per cui vai qua. Cappa, no, già l'ho conosciuta Sara, brava ragazza, tranquilla. Tranquilli, già sono tranquilli. No, ma è una cosa pazzesca, veramente, Giulio, credimi, pazzesca. Poi la cosa è quando ti metti a svuotare. No, questo non lo buttare, è un ricordo di mamma. Ma come si fa? Cioè, io devo buttare lo candy. Come posso portare da una casa all'altra un ricordo di tua madre? Ma dai, poveri, ho riempito quattro sacchi di quelli grandi, neri, di roba della mamma e l'ho portata alla chiesa. Capisco che sono ricordi, ma non mi posso buttare la roba fatta di tua madre, come faccio? Cioè, ho batterie da cucina mai toccate, viserani, un 700 biata, detto possiamo aprire un ristorante, bicchieri non te ne dico, ho fatto un cassonetto di vetro di tutto quello che ci ho buttato, proprio viaggiando con le cassette di plastica piene di bicchieri per buttarli via, cioè tutta roba che non usi, cosa ne fai? Servizi interi, digando disego io vada, tovaglie ancora incartate, tovaglioli, ho detto possiamo aprire un ristorante, saggio, lampado tutto. Sto mettendo a posto la roba che uso, la roba che non uso la sto dando alla chiesa e la sto buttando via perché non puoi portarti appresso tutta vita mondessa. È da se si adira quando la chiami mondessa, sono ricordi, non è mondessa, ma in me è mondessa. La stessa cosa ti dico qua. Sono tutti uguali, è una roba. Ricordi una cosa che intanto non userai mai, ti ricordi di che cosa? Che senso ha di avere lo spazio e l'occuparlo in cose inutili? Perché tutto sommato sono cose inutili dal momento che non li usi mai. Io ho fatto così. La stessa cosa ti dico, guarda qua. È una batteria, portala qua. Non è batteria da cantante, sono batterie da cucina, le ho tutte date, le ho date alla chiesa, capito? Poi si arrangia il parroco, Don Marco, e la darà ai poveri, a quelli che ne hanno necessità, io non me ne faccio niente, tanto, ma credimi, veramente, sto dicendo, posso aprire un ristorante, tranquillo, perché lì c'è 700 piatti, servizi completi di piatti, tutti da 24, 24 lisci, 24 fondi, 24 biani, di quei piatti di portata, di tutto. Ho trovato dentro l'armadio, Giulio, una cassetta piatta grande, un contenitore, e qua dentro cosa c'è? Sarà roba di mamma, apro e c'era un servizio completo di coltelli, forchette, ma forchette tre tipi, ghida manna, ghida media, ghida minore, i coltelli, quello grande, quello medio, quello piccolo, tutto da 24, tutto in acciaio e cerame, mai usato. Ma questo ce l'avranno regalato quando ci siamo sposati. Cazzo, 30 anni fa. Cioè io mi sono sposato nell'85, 30 anni, di più sono passati. Ma come si fa? E non l'hai mai usato? No, non sapevo neanche che esisteva. Cazzo, te lo vuoi buttare fatto? Arriga le occhi! Sì, ma è così, guarda. Presente c'hai tu un corredo di posate tutta d'argento, in argenteria, sempre conservate dentro la sua valigetta, dentro la sua confezione, perché intanto dove li metti? Non è che li puoi mettere in esposizione così. E sono tutti ossidati. Allora, quindi è lucidente di Nagana. Ma non è possibile, guarda, non te ne vai niente, sono cose appunto che saranno belle al momento, a vedere solo dopo che ce n'hai tanti anni, che soprattutto non ti ricordi nemmeno più di averlo, perché te li sei conservato in un posto dove lì non ci vai mai a vedere, a controllare e a prendere quello che ti serve, soprattutto per la cucina e per tante altre cose. Purtroppo così, cosa vuoi fare? Dimmi cosa ci vuoi fare. Le idee sono quelle, se le tengo le lasciamo di fare, d'altronde è così. Non ti sembra? Sì, può essere così, però io non capisco, cioè ci sono stati regalati, per carità, però dico, non te le puoi portare appresso, ce li abbiamo quelli giornalieri, abbiamo quelli da servizio, quando, per dire, fai qualcosa di più carino, ma cioè non puoi avere 700 buchetti, 700 cucciari, cusedie di tutto, insomma, prendi quello che ti serve, il resto dalle poveri, dallo alla chiesa e via. E così sto facendo, la verità, sto facendo così, perché altrimenti non ci vuole un furgoncino, non ci vuole un container per portare via tutta questa roba, veramente, perché poi c'è anche la mansarda. Io sui mansarda avevo messo mobili e roba dei miei soci, perché lei non ha voluto buttare. Ma vai a usare Giova, di traslochi, prima di traslocca in onga, la buia di più da tua mansarda, dimmi tu, tutta roba montonata, tutta roba mucchiata. Una cosa impressionante, vabbè che qua io ci sono dall'87, mi sono spostato in via Pascoli perché i miei suoceri appunto erano ancora vivi, poi quando sono morti loro sono venuto qua, dal nono piano sono sceso qua, ma va bene, abbiamo mucchiato tanto in questi anni, ma fuori mari, non dico da Montonano, ma è un albergo. Sono stato da quanto bello! lo so, è così. No, ma senta, te vuol dire, arriva domani, arriva in gara, ma conto mio, perché intanto è inutile avere questo, ti occupi lo spazio, e se uno è in casa d'affitto, finché sei in casa di tua proprietà, vabbè, non devi fare l'affitto, ma se sei in casa d'affitto, stai parlando l'affitto perché è la mondezza, io la considero mondezza, la verità, anche se tante cose possono essere utili ancora, però quando è troppo, non te ne vai niente, non ha senso tenere tutte queste cose in un ambiente che poi tra l'altro danno anche fastidio, perché devi sempre pensare di sistemarle intanto, a volte più grande avrai bisogno di intanto, ma chi te lo fa fare? No, la fase di tutto al buco. Cappa, sai cosa bisognerebbe fare? Pia, metto via così, pia la nuova vecchia, la passi tutta in laga e prendete quella nuova. Quando è in queste cose qua. Guarda tu che mobili che io qua sono abbastanza nuove, ma la metà, io le devo già dare a Portobello, perché l'arredamento l'ha battuto nuovo. Piano cucina, ad esempio, cucina così come è qua, non c'è più là, non si usano più, capito? Ho fatto fare, c'è praticamente il piano tutto in muratura e poi c'è l'incasso, tutto fatto così, no? Capito? Con i pensili sopra, ma pochissima roba. Non c'è una cucina da 3,60 m come in Tenoga, c'è megalomani, capito? Questa è una cucina a 3,60 m, con gli sportelloni, i pensili, cazzo, che ti devi mettere la scala per arrampicarti a prendere la roba, cioè cosa la matti? Vabbè, quella non l'abbiamo fatta noi, l'avrò fatta mia suocera, è rimasta così, però anche quella va smartellata e portata via, e quella è tutto legno, ma non è roba di Conferrama, quella l'aveva fatta Ted, la falegnameria Ted li aveva fatti tutti i mobili a mia suocera, capito? E quelli vanno dati, io non ne faccio niente di quella roba lì, non mi porto via le due camere da letto, il salotto e il tavolo con le sedie del salone, basta, e le due basi che ho finito, il resto è tutta roba che devo dare, perché là c'è un altro tipo di sistema di arredamento, non te ne fai niente. Ma a parte quello, io continuo a ribadire il fatto di mettere tutte queste cose dentro gli armadi, tutte. Non parlo di vestiario, mi Giulia, non parlo di vestiario. Se si fa vedere di vestiario, avevo un container, lascia perdere. tutti questi ricordi. Questa era di mamma, questa era di mamma, sì, ma mamma lui è morta 2 anni fa. Cosa cosa ne fai di questa cosa? Una pazzia, dalla, è un ricordo, e metti lì, e vabbè, lascialo lì. Un altro ricordo, lascialo lì, questo faccio l'armata e viene di roba. Ehi, se parliamo di bestiali allora, ui, non lo dire a me, che ogni massimo, ogni massimo mi frutto ogni 15 giorni. Presente se vai quei sacchi da 80 per 110, quei sacchi neri di plastica, eccetera, pieni, pieni di bestiali, portati alla cosa, al contenitore giallo, dove poi vanno gli zingari a scegliersi i capi che gli interessano. Purtroppo è così, per carità, per non parlare poi di scarpe. Tu presente ce l'hai una scarpiera, ascoltami bene, solo ed esclusivamente per mia figlia, larga 1,40 m, alta 3,65 m, cioè 2,65 m, sì, praticamente da terra al solaio, che mancano siano 5 cm, che li avevo fatto io, ci sono 6 sportilli, eh? Dentro questa scarpiera ci sono più di 150 paia di scarpe, più di 150 baggi, poi ce ne sono altrettanti sui mansarda. Borse poi non le parliamo, borse, mi tutto l'altro giorno, proprio questa settimana io ho buttato, senza esagerazione, ho buttato almeno 50 borse, guarda, 50 borse da donna, una cosa esagerata, quella che si dice. Nonostante tutto, loro prendono, mettono dentro e continuano a comprare, cosa mi vai da voi? Ma quello lì ormai è fuori moda, quello lì non mi piace più, quell'altro così, quell'altro qua, purtroppo è così qua, mi svegli, sono fatti così, non c'è niente da fare. Ripeto, più di 150 paia di scarpe in quella scarpiera, solo ed esclusivamente di mia figlia. Poi a parte ci sono le mie scarpe e quelle di mia moglie, ma non 150 paia di sicuro, no. E allora tua figlia va d'accordo con mia figlia, se ti ricordi, adesso non so se ti ricordi quando sei venuto qua, quello c'è a muro, quella in casa, la maglia a muro, sempre fatta dalle falegname di Attende, anche quello è metà dispensa e metà scarpiera, lì c'è tutta la scarpiera di mia figlia, tutta, senza quella che c'è in camera sua, nell'altra scarpiera che c'è in camera sua nell'armadio, capito? Io cosa faraggio? Sono esempio una tesi, 15 baggi di botti, le stive invernali, ma cioè, le donne sono una cosa pazzesca, veramente pazzesca. Infatti ho dovuto prendere delle scatole grandi e mettere, separarle, queste stive, queste invernali, queste da tennis, capito? Quelle da ginnastica e balle varie, un casino, io non l'ho mai fatto per loco, perché ripeto, quando sono andato via a Pasqua mi sono trasferito lì, la casa era già arrivata, ed era tra l'altro di mio cognato quella casa, quindi non ho fatto grandi cose, ho portato via il vestiario e qualche altra cosa, ma veramente fare un trasloco per svuotare una casa è un'odissea, una cosa allucinante, tanto male già non aggiungo altri, è la prima e l'ultima volta, comunque, fatto vuole, vai Antù. Capo, un gazzino, bravo, ha fatto della droga, mamma mia, vabbè, dai, piano si fa, cosa vuoi là, ora, tira, lo stavo guardando lo strumento, è un bel, lo so, un giramento di scatole, ma i picchi positivi o negativi c'è io? No, da me sono positivi, ma penso anche da Giulio. No, hai detto bene, un giramento di scatole, perché le scatole non sto girando tante. No, sono tranquillo, anzi, la sto prendendo con grande filosofia, con tranquillità, perché non c'ho fretta e sto prima svuotando tutti i mobili, lasciando le cose minime che servono sino all'ultimo, poi le porti via. Quindi mi sono organizzato benissimo, e che si è accampato, si è accampato perché non ti puoi muovere né qua né là, capito? Adesso stamattina sono andato e c'erano ancora i muratori, che stavano finendo di fare alcuni lavori, capito? Fare alcuni lavori. Mi hanno assicurato che settimana finiscono, io spero. Spero che settimana finiscano, perché poi bisogna entrare a fare pulizia. Fortunatamente c'è la mamma di ragazzo di mia figlia, c'è un'impresa di pulizia, quindi non ti preoccupare. Veniamo noi in una mattinata, puliamo tutto, disinfettiamo tutto, così sei pronto a portare via, ma cazzo, sempre tempo ci vuole, ripeto, sempre tempo. Sempre tempo, vabbè, piano piano, vai giù. Purtroppo è così, purtroppo. Perché avevo pazienza, avevo. Si separati. Comunque tutti e due, uno a fianco all'altro, sono larghi, 2 metri e 50, e alti 3 metri, cioè 2 metri e 65, sempre da terra al solaio. Li ha voluti questi due separati e con le ruote. Dentro ci sono tanti di quegli abiti che tu non hai idea. Addirittura non c'è spazio nemmeno di mettere uno spillo dentro, tanto è vero, ogni pochi giorni mi dà le buste da buttare, proprio da eliminare. Perché? Perché comprano altri indumenti nuovi. Purtroppo le donne sono fatte così, te lo sto dicendo, lo fanno perché hanno bisogno di cambiare continuamente in tutti i momenti. Quello che si mette la mattina non se lo mette la sera, tanto per darti un'idea, no? Pure questi armadi sono sempre dominelli noi dentro la stanza, un giorno li vedi tutti e due affiancati uno all'altro, un giorno li vedi uno in una parete uno all'altro, il lettino spostato, un gomolino altrettanto, la televisione, ma questi muri, ma sempre camminando stanno in questa stanza, e da deputare lì, ma non è possibile, non è possibile. Purtroppo le donne sono così, non ve li meglio, io glielo ho detto tante volte, ma le lascio fare, tanto ne fate niente, non è che posso io, chi se ne frega, io faccio altre cose. Vai, sì, ma sono tutti così, insieme a mia moglie e mia figlia sono così, c'è sempre la Montumendi, sempre il Vendi, e poi alla fine è roba da buttare, perché anche mia figlia ha detto, no papà, questo non da buttare, ma allora cosa le tieni a fare lì, cosa le tenevi a fare lì? E vabbè, com'è tutto, perché adesso non si usano più, sono più fuori moda, quindi sono da buttare, e io piena, niente, tutto qui e buttiamo via. E ne ho dato tantissimi, no, io nel cassonetto giallo non le butto il vestiario, sono d'accordo con Don Marco, il parroco qua di Carbonazzi, metto se devi dare qualcosa, metti tutto nei sacchi, poi la smistiamo noi, la diamo noi a... e c'è gente che ne ha bisogno, ma roba nuova, non va roba lavata, roba nuova, anche scarpe nuove, sono scarpe anche dentro la scatola, capito? Giusto per non portarli via, e adesso vediamo, dai, piano piano, già li buchiamo bene. Vai Anto, non siete andati da nessuna parte? No, non sto bene io, quindi adesso sono a casa e non sono andato assolutamente da nessuna parte, non sono andato, e quindi c'ho mal di testa, pure le luci sono, niente, adesso vediamo se sta bene, cioè se va tutto bene la prossima settimana, sempre se è, si parte a Olbia con la mia sorella, vado. Ehi, almeno ti fai un viaggetto, vai. E poi entro appena è tutto sistemato, tutto a posto, mi metto già qualcosa la faremo. Con la speranza che arrivi in tempo bello, perché meno male che ancora sono qui e che non mi sono messo a muovere niente, se no a trovare con questo tempo brutto è veramente un casino. Veramente un casino. E vabbè. Avanti Giulio. Ok, ma comunque hai visto, adesso siamo contenti che siamo colorati di nuovo, prima era un viso pallido, ora siamo bronzati da lunedì, siamo buoni già, purtroppo è così, lasciamo di fare anche loro, sì. A me viene da ridere quando c'è sì, stanno senza discorso, hanno delle donne o qua, purtroppo così, ma non solamente cose, se parlo poi di orologi, tu immaginati, secondo te una donna quanti orologi può possedere? Beh, di avvenire ne avrà almeno un centinaio, di lugna bipu, di ogni tipo, tutte le volte che c'è un regalo è da orologio, sempre orologio, orologio. Ma che cosa te ne fai? Con queste luci? Sai cosa mi ha risposto un giorno? E tu di tutto quel baracchino che cosa te ne fai? Ecco, vai tu a rispondere, non hai ragione. Io non faccio le rimenate adesso i baracchini, ne ho qualcuno, compreso quello che mi avevi dato tu. Però è il vento rioso mi dà sempre. Cosa vuoi che ti dica? Non si può nemmeno discutere, guarda. Tanto poco, però sono buona moglie, la roba, dice sai cosa mi dice, allora io sto lavorando, dice, e dunque me le compro, le cose che mi piacciono me le compro, così almeno me le godo, adesso che sono giovane, così mi risponde qua. Come sono? Saturo sono di modulazione. No, io ti sento bene, non so Giulio. Adesso in questo passaggio non molto, ma poc'anzi un po' Saturo, sì. Nei primi passaggi poc'anzi sì. Sto usando l'Intec 550 Power, dai. Che da un po' di tempo che era fermo, me l'hanno aggiustato, me l'hanno. E adesso sto usando. Ok, già andava bene, però la voce è cupa, la voce è sempre cupa, ma si sa, è sempre il discorso è quello, pure l'Intec ce l'ha come caratteristica anche l'emissione radio dell'Intec, è un po', è sempre stata un po' cupa. Capito? Sento l'uso, dimmi tu cosa te ne fai, boh? Anche quello, ma di tutto, dai, di tutto. Mia figlia a centro non ce li ha, ma già ne ha anche orologi, poi c'hanno tutta questa cosa di tutta questa bigiotteria, tutta questa cosa, ma allora per carità, ho dovuto prendere sai quei contenitori di plastica perché ce li hanno nei cassetti, quindi io i cassetti devo svuotare, non è che posso, allora li ho messi tutti nei contenitori di plastica, con la scritta, col nastro, la scritta, è un lavoro, ma ti ripeto, la sto prendendo con molta tranquillità, molta serenità, perché ti ripeto, non mi interessa, non ho fretta, non ho niente, con tranquillità. Se no, se mi incazzo dirà un po' tutto la mondezza, perché veramente è una cosa assurda, ma proprio per me è mondezza. Dove loro dicono, no, sono cose che servono, cose che ci mettiamo, cose qui, cose là, ma se non te la ci mai visti, cosa ne vai? E non è capitato, se non è capitato, sarà, vabbè, comunque. Fedi che se lo rimbiazzi, io per dire, la roba mia ce l'ho già tutta pronta, non ci vuole assolutamente niente. E la stessa cosa ha risposto a me mia figlia, quando gli ho detto cosa ne fai di tutta questa roba dentro l'armadio, lei mi ha risposto la stessa cosa, e tu cosa ne fai di tutti quei baracchini sopra quella scrivania? Capiti? Anzi, la mano per me, perché li ho tutti dati. Però, dico, quando ce n'erano tanti, la prima cosa che si attaccavano, mamma e figlio, era sempre i baracchini. E vabbè, voi ci avete la passione della bigiotteria e di tutti gli tagli che c'è a Fusaglia, io ho la passione dei baracchini, io arrivo. Però, va bene così. Ti ripeto, stiamo andando alla grande, piano piano, da, penso, prossimo mese, le prime settimane di aprile di aver finito tutto, di essere già nella casa nuova, lo spero, perché così trascorro l'estate tranquillo, senza problemi di traslochi e di portare via niente, poi con calma mi faccio la mansarda, chiamo Portobello, roba che la buttare via la butto, ci saranno una ventina di tubi, antenne, cavi, carretti, insomma io casino di vero, ma quella me la porto via piano piano in macchina, intanto no. Non è cosa che serve, io ho una stanza fuori, che è intonacata esternamente, ma internamente no. Metto tutto lì dentro, faccio gli scaffali, metto tutto lì dentro, si abbiglia il luce. Vai Giulio. Ok, qua. Ti stavo dicendo poc'anzi, hanno detto che ho buttato una cinquantina di borse, no? Naturalmente lì senso che li hai eliminati man mano e li ha ammucchiati e io prendevo e mettevo dentro le buste, no? Gli esercizi 5 butti, 5 buste piene di borse. Però la cosa più curiosa, sai qual è, qua? lei controllava se all'interno delle borse ci fosse qualcosa. Beh, tu non ci crederai, in tutte quelle borse sai che cosa ho recuperato? Perché lui mi ha detto, ah, io lavoro e tu in casa, perché in ogni borsa c'erano monete e in tutto mi sono usciti 35 euro e qualche centesimo da tutte queste borse. Sono borse che lei abbiamo abbandonato ormai da anni e c'erano tutte queste monete, 2 euro un posto, 1 euro 20 un altro, 1 euro 50 un altro, insomma 35 euro da quella polizia che ha fatto le borse lì, io ho incassato 35 euro perché faceva, lei prendeva e le buoni imbusciata, 35 euro da tutte le monete, ho fatto. Se poi state lì, allora io lavoro lì, se tu incassi, così mi ha risposto Nicola. Perché poi è così. Sì, borse anch'io qualcuna, però niente di particolare, qualche di una vecchia che non si mettevano più, la mia moglie e la mia figlia non usavano più, le ho buttate via, però ti ripeto, sempre la chiesa, io sto dando tutta la chiesa, tutto, perché non mi va a metterlo in quei cassonetti, ho visto gli zingari, sai cosa fanno, aprono, buttano tutto per terra, spavano i pagli in tutto, buttano tutto, lasciano tutto lì, diventa un mondezzaio. Allora preferisco andare alla chiesa, capito? Magari qualcuno la serve, perché c'erano anche abiti nuovi, buoni, c'erano due tutte mie da ginnastica che non mettevo più, quindi magari qualcuno la usufruisce, fa roba lavata, pulita, e va per la chiesa. Però ribadisco che di cose ce ne sono tante, io guarda, se ti mando la foto di come ho la casa, vedi, cazzo, manco di zinga, c'è uscito, tutta messa bene, per le scatole sistemate, ma c'ho la casa piena di scatole di cartone, siamo brutti accampati, capito? Quindi non provo di sistemare tutto, di iniziare a portare via, in modo che rimangano solo i mobili, poi vengono degli amici, danno una mano, smonto i mobili che mi servono, carico tutto, devo prendere un furgone a noleggio, mi costa 70 euro, 70 euro più IVA al giorno costa, ma in un paio di giorni ho fatto tutto, non è un problema. Fa chicos. Cosa? Mi sentite? Questo è quello omologato, dai. Ho cambiato radio. Sì, io ti sento sempre, non c'è problema. E KK, dai. E gli erodi che minimo era quasi un mese sudando. Vabbè, tu ci l'accendo, che mi sembra troppo, uso sempre l'altro, troppo tempo fermo usa il tuo baracchini da salire a passi, baracchini non si guasta, usa l'altra, che quella bisogna usarla, quella non la tenere spenta, quella usala. Quando è rientrato il 430 il Galaxy è spento, sto usando questa proprio per tenerla in funzione, per vedere insomma se poi ha problemi, se ha altri problemi, ma non penso, sta andando benissimo perché il tecnico lo voleva sapere. Mi sto cambiando la garanzia, appunto, del voleva sapere se andava tutto bene, ma già va bene. Avanti giù. Sì, ti sento bene tu, adesso ti sento anche più chiaro secondo me di quando stai guardando l'altro poc'anzi, questo è un po' più chiaro, questo va benissimo. Sì, no, stavo dicendo qua, vabbè adesso no, magari perché intanto ho visto che sta andando bene, poi tu stesso mi hai confermato che in AM più di 40 watt questa radio non dà, mentre invece come ti stavo dicendo ieri, quando metto in FM la freccia schiaccio e arriva ai 100 watt. Così anche in banda laterale lo stesso, però diciamo che prima o poi un piccolo rimessaggio bisogna fare anche a questo, dopo intendo quando è il momento mi dai tutto l'input per poterlo spedire e fargli fare una bella revisione generale, perché tanto vuole comprare un altro nuovo ed è sempre inferiore a questo, tanto vale riparare questo e fin quando non si spegne definitivamente è meglio tenerlo sempre, perché almeno so che ho una radio che tra l'altro funziona molto bene, per cui tanto inutile andare, mi sei comprato un altro barattino, e l'ho trovato, adesso è 200 euro, 250 euro, con quello soldi, tanto vuole ti revisioni questo e ti accampare ancora. E hai una radio, non c'è tanta che di qua. Ecco qua, questo va un po' meglio, dai. Ehi, lascia stare questo, 250 euro, 150 euro ma questo ce ne è 4. Guarda, io gliel'ho mandata, gli ho detto falla con calma perché intanto avevo il Galaxy, poi ero impegnato in questa cosa, perciò non è che me ne fregava più di tanto. L'ho fatta con calma, ma io ho speso 80 euro, ma 80 euro ho compreso il viaggio, capito? 80 euro ho compreso il viaggio, Giulio, ma la radio è tornata nuova, mi ha cambiato tutta la carretteria interna, sai, tutti quei cavi, non so se l'hanno visto aperto, o 430, o 440, 140, c'erano tutti quei cavettini fini fini, con tutte quelle spinette, e la mia ballavano tutte, io a volte dovevo prendere a colpi per accenderla. Nel circuito stampato non c'era più una saldatura fatta, c'erano tutti integrati, qualsiasi cosa era collegata al circuito stampato si muoveva, qualsiasi cosa, capito? Perché non c'era più stagno da nessuna parte, quindi tutto smontato, fatto a pezzi, ripreso tutto in generale il circuito stampato, cambiata tutta la carretteria, mi ha cambiato, mi sembra, due integrati, qualche conversatore, qualche resistenza, perché ha visto che non c'è integrità, ha visto che ce l'aveva lì, e poi mi ha fatto tutto un allineamento completo e gli ho pagato 80 euro, compreso il trasporto, quindi di cosa stai parlando? Quello bruciano 50 euro, è onestissimo, Giulio è veramente in gamba, poi ho fatto amicizia, mi ha mandato anche un pacco a parte con salsiccia, formaggio, acqua vite, mirto, tutte queste cose così, capito? Lui è molto amante della Sardegna, infatti il cacciotto nero che neanche quest'anno sicuramente potrà venire qua in Sardegna, perciò è una bravissima persona, veramente, tecnicamente molto preparato, fa tutto, qualsiasi cosa, tutti HF, UHF, UHF, modifica baracchini, quelli con la scheda a colpi, quelle cose lì, c'è un bellissimo laboratorio, quindi quando vuoi me lo dici, non c'è problema, assolutamente, alla grande. E c'è la radio nuova, io lo stesso ho fatto quel ragionamento lì, ho detto ma se questa la metto da parte eccetera, me ne buco un'altra, magari spendo soldi ed è peggio della mia, no, faccio revisionare la mia, che questa ce l'ho 10 anni e non è mai stata toccata, mai, quindi è tornata nuova come era prima. Vai Antu. Cappa, non capisco perché siano saldate tutte queste saldature, che si consumano Antu, 10 anni, io questa radio ce l'ho 10 anni, l'ho comprata la volta di Arbole che 10 anni fa, e non ho mai fatto nessuna riparazione, l'unica riparazione che è stata fatta qua a Sassari, da una persona, mi ha cambiato il display, mi ha messo il display nuovo, il frequenzimetro nuovo, perché si erano bruciati gli ultimi 2 decimali, basta, non ho mai fatto nessuna riparazione, assolutamente, lo stagno si consuma, cioè sì, non so manco io dirti il perché non sono un tecnico, ma forse ti puoi rispondere in materia più Giulio di me, ma praticamente mi ha mandato le foto e i componenti erano tutti senza stagno, tutti, non veniva più, vai Giulio. Ok, lo sai che il circuito stampato è fatto praticamente a saldatura a stagno, no? Perché con il tempo scaldano e si possono anche allentare i contatti, no? Non c'è da meravigliarsi di questo, per cui lui ha dovuto rifare tutti questi e controllare tutte queste cose qua, ma questo succede anche nelle televisioni, succede negli stadi, succede in tutto, in tutte le apparecchiature elettroniche. Le saldature sono fatte, però si sa prima o poi qualche contatto non è più perfetto come deve essere, e allora va ritoccato, va riparato. Tutto lì. Ho capito qua. Sì, ma non ci sono dubbi. Va benissimo. No, ascolta, a me adesso c'era una cosa che io sinceramente non me lo ricordo. Io parlo di AM perché intanto io vedo sempre quella. Quando schiaccia la portante, lo smitter, cioè la lancetta, dove si deve fermare, a quanti watt si deve fermare, a 50, a 30, tanto, a 100, dove a fondo scala, come va? Non me lo ricordo, se prima era a fondo scala, perché è come se fai, ma massimo se no saranno 30 watt, non di più, o qua. Vai. Qual è il 440? C'è la potenza regolabile? La potenza regolabile sia in M che in FM, quindi decidi tu dove metterla, c'hai lo strumento nello smitter, la scala dei watt e te lo posizioni come vuoi, piuttosto devi fare una prova, perché io l'ho già fatta nel mio e me l'ha detto lui che me l'ha fatta così, io anche se metto il carrier al massimo non sale più di 40 watt, capito? Non sale più di 40 watt, ma la tratta così e va benissimo. Io adesso la sto usando a 20 watt di portante butta e sui 30-35 modulati, capito? Però se io metto il carrier al massimo non va più di 40 watt. Tu devi provare in AM a schiacciare la portante e guardare la potenza quando tu l'aumenti sino a dove arriva. Se arriva a più di 40 watt, se va anche a 100 watt, a 80 watt, vuol dire che la radio è toccata, non è stata toccata, capito? Perché queste radio, tutte queste radio, tutte le quattro vecchie della cable, 140, 70, 430 e 440, in AM c'è scritto, proprio la potenza in AM che devono erogare sono circa 40 watt, non di più, mentre in FM e in SSB 100 watt, ma il 440 ha la potenza regolabile anche in FM, quindi la puoi abbassare, se ce l'hai troppo alta quando schiacci la portante la puoi abbassare, la puoi regolare. Ah, che banda laterale mi pare, no? Sì, è regolabile, il 440 è tutto regolabile, come il 430, 140 e 680 è regolabile in AM e basta, capito? Sì, da un gioco, Iacco, vedete. L'ho tirato su, adesso è al massimo per la potenza, e mi si ferma alla tratta 40, cioè 10, 20, 30, 40, aspetta che controllo con certa modulazione, è anche scarso, meno di 40 dovrebbe essere, però quando parlo supera anche i 100, o qua, l'oscillazione dell'albo supera anche i 100. Però la portante è muta, la riprovo, infatti non arrivo, l'attacca 40 non arriva. È tirato su tutto il carri adesso, o qua, così dovrebbe essere, è normale? No. È stata toccata l'oscillatore della quello che fa spingere praticamente la potenza. Questa a 40 watt di proprio al massimo da 40 watt, ma non va di più, non si sposta, capito? Per avere i picchi di modulazione io devo tenerla a 20 watt, allora va intorno ai 35-40, ma non sale più di quello. Quindi se io fischio va a 100, assolutamente, perché è fatta in laboratorio. Quella lì evidentemente è stata toccata da dentro la resistenza variabile, il cosiddetto trimerino, che spinge la modulazione. Ecco perché i picchi di modulazione da 40 watt a 100. Sicuramente anche quella di Antonio è così, però sono state fatte male, non si fanno così. Io ero contrario, per carità, anch'io ce l'avevo così le mie, però alla fin fine, quando la parola di un tecnico di laboratorio, uno che ci lavora, un professionista, ti dice così, bisogna fare così perché la radio dura di più, capito? La sfrutti di meno, soprattutto noi che le usiamo in AM. Ok, infatti, stavo guardando, aspetta che faccio l'abbasso, aumento, a vedere. Allora, adesso è meno di 40. Ecco, sto abbassando. Adesso sono 30, meno di 30. Adesso mi segna la testa, sempre parlando di importante muta, Adesso sono quasi 20. Adesso in questo momento la sua più centrata sul 10, sempre portante muta, Sì che fino a questo momento la radio funziona. Adesso così stavo siano 5 volte.